Siamo in collegamento con Benzo del Corpo Docenti, band che insieme ai Botanici si esibirà live questo sabato 22 ottobre al Covo Club di Bologna. Ciao Benzo, benvenuto a Radio Città Fujiko. Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Dai, abbastanza, diciamo di sì. Lo scorso 11 marzo di quest'anno è uscito il vostro ultimo album, il secondo, dal titolo Un posto sicuro. Vorrei partire un po' da qui, da questa pubblicazione, e ti chiedo quindi di raccontarci come nasce, come è nato questo progetto. Perfetto, Manuela, tra l'altro hai detto 11 marzo, mi sembra passato veramente tantissimo da quando abbiamo pubblicato Un posto sicuro. Cioè, a ripensarci adesso che siamo praticamente a ottobre, mi sembra veramente passato un secolo, anche se in realtà è passato neanche un anno, cioè wow. Vabbè, è un disco nato in un periodo strano, come ben potrai immaginare, visto che i primi singoli sono stati scritti in quello che era il periodo lockdown, soprattutto il singolo Sottotitoli, che è stato scritto a distanza, è stato portato poi in saletta. È stata una produzione un po' travagliata, ma non nel senso negativo del termine, nel senso che abbiamo lavorato un po' a distanza, poi ci siamo ritrovati, noi band più Divi, tuttora, in saletta e abbiamo deciso un attimo di lavorare i singoli in modo leggermente diverso da come abbiamo fatto fino a quel momento. Potrebbe essere un disco che era stato lavorato prettamente in saletta, suonato, e Un posto sicuro è stato lavorato molto più in studio, un po' meno suonato, però è stato molto più ragionato, mettiamola così. Da lì, post lockdown, poi è nato tutto quello che era il resto del disco, siamo stati molto più insieme, tutto qua essenzialmente. Saletta, molto meno suonato, molto più ragionamento sui suoni, sugli arrangiamenti e su quello che erano le parti di ogni musicista. Questo venerdì invece, quindi un giorno prima del live al Covo, il sabato 22 ottobre, uscirà il vostro nuovo singolo, Non ci avranno mai. Hai voglia di anticiparci qualcosa sul singolo? Come Milioni di strade, che è stato il nostro singolo precedente, sono singoli nati subito dopo Un posto sicuro. Io e Federico ci siamo messi a scrivere di nuovo, senza grandi pretese in realtà. Volevamo solo capire cosa poteva uscire mettendoci a scrivere insieme. Sono stati due singoli con due produttori totalmente diversi e che ci hanno fatto uscire un pochino dalla nostra comfort zone, mettiamola così. Seppur rimanga una timbrica, oddio, di alternative rock, se possiamo così chiamarlo, ci sono delle componenti che non avevamo mai sperimentato prima. Ora, questo singolo è prodotto da Wolf, conosciuto per aver prodotto Tananai. Abbiamo, come ti dicevo, sperimentato delle nuove strade, dei nuovi suoni, dei nuovi modi di fare, e siamo usciti un po' dalla nostra comfort zone. Sappiamo neanche noi cosa aspettarci, però a noi il singolo piace un sacco e siamo veramente contenti di quello che è uscito. Benzo, ti faccio un'ultima domanda, questa invece è un po' più sulla serata di questo sabato al Covo con i Ok. Botanici. Che cosa dobbiamo aspettarci da questo live e nello specifico anche un po' da questa serata a più voci? I Botanici ormai sono nostri amici, sono persone che conosciamo, con cui abbiamo condiviso il palco. Direi una gran bella festa, nel senso che Bologna è una delle nostre città preferite dove andare a suonare, una delle nostre città preferite in generale, senza fare campanilismi vari. Però io direi una bella festa tra amici, tra persone da riabbracciare. Ecco, tutto qua, una bella festa divertente e un gran bel concerto. Perciò speriamo di divertirci, speriamo di far casino che ci manca. Benzo, io ti ringrazio e ci vedremo questo sabato al Covo Club. Assolutamente sì, grazie mille a voi ragazzi.